Perfetta Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Alla fine non bisogna fare le sfilate di moda, bisogna giocare a calcio. E su questo io sono molto arrabbiato. Bisogna crescere, perché non si può stare 3 minuti fuori con un giocatore che si deve cambiare i calzini. Non diciamo chi è il giocatore, questo però era Massimiliano Allegri, che era ascoltatrice, che era ascoltatori, tecnico della Juventus. Siccome l'arbitro aveva ritenuto che un giocatore avesse delle calzette troppo sgargianti, l'ha mandato fuori a cambiarsi e lui era lì tutto tranquillo. 3 minuti, dice Allegri, è un amico, una sfilata, questa è una partita. A proposito di calcio, Roma-Bayer che è iniziato da poco, la Roma è già avanti di un punto, 1-0 per il momento Roma-Bayer, per chi fosse interessato al calcio. Ma come sapete qui a Effetto Notte ci sono sempre tantissimi argomenti. Sicuramente ritorniamo fra gli altri temi stasera su Vatileaks, perché sapete che c'è stato Nuzzi ieri, uno dei due autori dei due libri che hanno creato questo scandalo, insomma, con questi documenti riservati che contengono, ieri Gianluigi Nuzzi. Stasera ci sarà invece Emiliano Fittipaldi. Nuzzi ha scritto Via Crucis, Fittipaldi ha scritto Avarizia, tutto sugli scandali e sui segreti appunto di questo ulteriore vicenda, questo Vatileaks 2. C'è questo altro dicevo filone di indagine che riguarda lo IOR, guarda un po', la Banca Vaticana, che in realtà non è la prima volta, insomma, che nell'occhio del ciclone. Tra pochissimo quindi ne parleremo, adesso fra poco vi sintetizzo le notizie della giornata. Voi intanto potete naturalmente prendere come sempre appunti del numero per gli sms o della pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete sempre aderire con entusiasmo, senza indugio, giorno e notte, oppure gli sms al 349-238-6666. Non vi lancio un tema in particolare, stasera ce ne sono varie, anche non so, le vostre sensazioni su questo ennesimo scandalo che riguarda il Vaticano. E da una parte si dice i corvi, quelli che hanno dato il via a questa fuga di notizie, volevano in qualche modo proteggerlo per fargli capire che cosa gli sta succedendo intorno, ma mi pare che dal Vaticano anche padre Lombardi, il portavoce, insomma, siano piuttosto arrabbiati e amareggiati per questa cosa. Ma ne entreremo ancora più nei dettagli stasera. Legge di stabilità. Dopo il vertice tra governo e regioni, il sottosegretario De Vincenti assicura venerdì nel Consiglio dei Ministri il decreto salva regioni. Vatileaks, nuovo filone d'inchiesta. Vaticano e Italia indagano per il riciclaggio. Padre Lombardi dice la fuga di notizie è superata dalle riforme del Papa. L'omicidio di Elena Ceste, il marito condannato a 30 anni di reclusione. Lui commenta: sono una vittima di un errore giudiziario. Mannino assolto sulla trattativa Stato-mafia. L'ex ministro si sfoga: sono vittima di un accanimento dei PM. L'aereo caduto sul Sinai, è esploso un motore, ma le cause sono ancora da chiarire. La Gran Bretagna ferma i voli sull'area per timore di attentati. Difesa sì degli Stati Uniti all'Italia, avrà 2 droni armati, e in America bloccati i voli a San Diego per un cecchino che spara all'impazzata. La classifica di Forbes, Putin anche nel 2015 è la persona più potente del mondo, seguono Merkel e Obama. Per lo sport, calcio, serata decisiva per la Roma in Champions League, finora vi dicevo piuttosto bene con 1-0, nel MotoGP cresce l'attesa per la gara di Valencia. Partiamo quindi dal vertice che c'è stato tra governo e regioni sulla legge di stabilità. De Vincenti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, alla fine di questo incontro ha detto: venerdì avremo un Consiglio dei Ministri che varerà il decreto che risolverà un problema di natura contabile delle regioni, praticamente il decreto legge salva regioni. E sulla legge di stabilità ci sono risorse, ha detto, a disposizione delle regioni che vanno gestite bene per fare bene i servizi con i cittadini, a cominciare dal settore sanitario. E oggi a Palazzo Chigi ha pubblicato Palazzo Chigi le linee guida del Master Plan per il Sud, di questo programma per il Sud, l'accelerazione della spesa dei fondi europei, ci sono la leva fiscale per capitalizzare le imprese, un pacchetto di infrastrutture prioritarie, l'aggregazione delle società partecipate, sono questi i punti principali. E nel primo pomeriggio Renzi aveva visto invece il prefetto Tronca, prefetto di Milano, alla vigilia dell'avvio domani del maxi processo Mafia Capitale. Un patto del Nazareno in salsa capitolina. Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin propone al Corriere della Sera un accordo tra PD e Forza Italia per la candidatura di Alfio Marchini a Roma, tanto da ostacolare la possibile vittoria del Movimento 5 Stelle. Quindi se no vince che... il Movimento 5 Stelle. Quindi vuol dire che... Secondo me potrebbe essere una strada percorribile, se però si riesce a fare un'azione di azzeramento sulle classi politiche, diciamo, che hanno di fatto governato questa città negli ultimi ultimi 15 anni. Lorenzin nega poi di volersi candidare perché è madre di due gemelli appena nati. A rispondere al ministro Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle, che conia l'hashtag votiamoli via. Intanto il commissario di Roma Capitale Francesco Paolo Tronca si reca a Palazzo Chigi per incontrare Matteo Renzi alla vigilia dell'apertura del processo su Mafia Capitale. Il premier apre alle primarie del PD per Roma e sul fronte nazionale anche a modifiche per l'Italicum. Meglio il premio di lista, dice, anche se non abbiamo totem ideologici. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Ecco, infatti questo potrebbe essere un argomento da sottoporvi, ascoltatrici e ascoltatori. Sembra che Alfio Marchini, almeno nella proposta, avete sentito, della ministra Lorenzin, possa essere il candidato per trovare una mediazione tra centrodestra e centrosinistra per Roma come sindaco. Lo vedreste, Alfio Marchini? Che pensate di questo ulteriore specie di patto del Nazareno che mette insieme centrodestra e centrosinistra per trovare un sindaco adatto a Roma? Intanto vi piacerebbe? E poi cosa pensate appunto di questa possibile alleanza trasversale? Tra l'altro domani, dopo le prime condanne che sono state ieri in rito abbreviato per Mafia Capitale, sapete, inizia il maxi processo di Mafia Capitale, se ne occupa Raffaella Calandra, poi la raggiungeremo a Roma. Per quanto riguarda Vatilix, emerge, vi dicevo, un nuovo filone di inchiesta. Vaticano e Italia indagano per riciclaggio. Padre Lombardi, che portavoce del Vaticano, dice la fuga di notizie è stata superata dalle riforme del Papa. Poi tra poco ci addentreremo ulteriormente in questo argomento. C'è anche la notizia arrivata in serata sull'omicidio di Elena Ceste. È stato condannato a 30 anni di reclusione Michele Boniconti, marito di Elena Ceste, la donna di 37 anni di Costigliole d'Asti in Piemonte, madre di quattro figli, che era scomparsa da casa il 24 gennaio del 2014. Si ipotizzò per qualche tempo la fuga, poi il suicidio, poi dopo c'è stata la svolta. Il 18 ottobre lei è stata trovata il 18 ottobre dell'anno scorso, cadavere in un canale pieno di fango. E il giudice di Asti, Roberto Amero, dopo che è stato arrestato il marito, c'è stata la svolta negli ultimi mesi, ha accolto la richiesta dell'accusa per omicidio e occultamento di cadavere della moglie Elena Ceste e ha condannato il marito Boniconti a 30 anni di reclusione. Lui dice, si è sempre proclamato innocente, dice di essere vittima di un errore della giustizia. E poi invece sono stati concessi 4 anni di sconto in appello per Maurizio Falcioni, che è l'uomo accusato di aver massacrato di botte la fidanzata, uscita a Roma dal coma dopo molti mesi ma rimasta con gravissime disabilità. L'uomo è stato oggi condannato a 16 anni, sono stati quindi condonati 4 anni dalla prima corte d'appello. In primo grado la condanna era stata a 20 anni in sede di rito abbreviato e il padre della giovane è svenuto in aula dopo questo sconto di 4 anni. Trattativa Stato-mafia, oggi è arrivata la prima sentenza ed è stata di assoluzione. Assolto per non aver commesso il fatto. Si chiude così per il momento uno dei capitoli della cosiddetta trattativa Stato-mafia, con l'assoluzione da parte del GUP del Tribunale di Palermo Marina Pitruzzella dell'ex ministro Calogero Mannino, imputato di minaccia a corpo politico dello Stato. Mannino, a differenza degli altri imputati, aveva scelto il rito abbreviato ed è per questo che è stato giudicato separatamente dai boss Totò Riina, Leo Luca Bagarella, Giovanni Brusca e Antonino Cinà, dal figlio di Don Vito Ciancimino Massimo, dagli ufficiali dei carabinieri Mario Mori, Antonio Subranni, dal colonnello Giuseppe De Donno, dell'ex senatore Marcello Dell'Utri e dall'ex ministro degli interni Nicola Mancino, che restano imputati nel processo principale attualmente in corso. Il PM Nino Di Matteo, Roberto Tartaglia e Vittorio Teresi, gli stessi che sostengono l'accusa nel processo sulla cosiddetta trattativa, hanno annunciato che impugneranno la sentenza, mentre il capo della procura di Palermo, Francesco Lovoi, è più cauto. Valuteremo se impugnare la sentenza dopo averne letto le motivazioni, dice Lovoi. Per l'avvocato Nino Calei, uno dei legali di Mannino, i processi penali non sono i luoghi più adatti a ricostruire la storia, si fanno con i fatti e per accertare precise condotte penali. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. Spostiamoci adesso sulle notizie dall'estero. L'aereo è caduto sul Sinai, c'è l'ISIS, il sedicente Stato Islamico, che sfida Putin e dice vi diremo cosa è accaduto, così dicono il nuovo messaggio audio sul web. Per Downing Street, per il primo ministro britannico, è stata una bomba a far cadere l'aereo russo, di conseguenza Londra ha deciso di sospendere immediatamente tutti i voli in partenza da Sharm el-Sheikh, che è l'aeroporto sul Mar Rosso da dove il volo russo era partito con 224 persone a bordo. E poi parliamo anche di droni, perché fonti della difesa italiana confermano il via libera degli Stati Uniti alla richiesta dell'Italia di armare 2 droni. I droni, sapete che sono gli aerei senza pilota. A quanto si apprende, l'autorizzazione è generica per il momento, non riferita a una missione all'estero in particolare che impiega gli aerei senza pilota. Per ora con funzioni di sorveglianza. Passeranno tuttavia mesi prima che i droni armati siano pronti. E sempre dagli Stati Uniti, le autorità di San Diego, adesso è una notizia che vedo che non ha sviluppi per il momento, hanno bloccato tutti i voli in arrivo all'aeroporto di San Diego dopo che un cecchino ha iniziato a sparare all'impazzata dal sesto piano di un edificio a Little Italy. La polizia sta negoziando con l'aggressore, non mi pare per il momento che ci siano aggiornamenti, naturalmente se dovessero arrivare ve li darò in diretta. E, aereo Sina ai servizi degli Stati Uniti, è stata una valigia... una bomba in una valigia dell'ISIS, è una notizia che sta arrivando proprio in questi momenti relativamente all'aereo russo caduto sul Sinai. A far esplodere l'aereo russo precipitato sul Sinai sarebbe stata una bomba piazzata dentro una valigia o un bagaglio a mano, lo riferiscono fonti dell'intelligence americane citate dalla CNN, fonti che precisano come l'attentato potrebbe essere stato portato a termine proprio dall'ISIS o da un gruppo affiliato. Una specie di conferma che è arrivata in questi momenti. E poi sempre negli Stati Uniti, 5 studenti della University of California sono rimasti feriti dopo che un uomo li ha presi in ostaggio e colpiti con un coltello. L'aggressore è stato poi ucciso dalla polizia nel campus. Questa è l'ennesima vicenda negli Stati Uniti di questo tipo. Poi nuovo tonfo in borsa per Volkswagen, colpita oltre che dal Dieselgate anche dalle false dichiarazioni sulle emissioni di CO2 dei motori a benzina. L'azione privilegio ha ceduto il 9,5%, sotto pressione anche Porsche. E adesso parliamo delle proteste alla Michelin in Piemonte dopo l'annuncio di 578 esuberi. Se vogliamo provare a fargli cambiare idea, è evidente che la condizione è la tenuta della mobilitazione di tutto il gruppo. Maurizio Landini non usa mezzi termini. Lo sciopero serve per aprire un tavolo di trattative con l'azienda che ha annunciato il taglio di 578 posti di lavoro in Italia su 4.300 totali entro il 2020, 400 sulla Fossano, il che significa che lo stabilimento verrà chiuso entro fine 2016. A manifestare con il numero uno della FIOM vi erano circa 500 lavoratori che hanno già pronte altre 8 ore di sciopero. Fossano non deve morire, scrivono sugli striscioni. È un piano inaccettabile, spiega Ulgiati dell'UGL Chimici. Non si può semplicemente dire abbiamo la necessità di ridimensionare, riorganizzare, abbassare i costi e lo facciamo a solo danno dei lavoratori. Esuberi sono previsti anche ad Alessandria, Torino e nel Padovano. Michelin ha già detto di essere pronta al confronto che coinvolgerà con tutta probabilità anche il governo. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora la classifica dei potenti di Forbes per il secondo anno consecutivo. Putin resta la persona più potente al mondo, lo rivela The World's Most Powerful People, la classifica appunto dei leader più potenti al mondo compilata dal magazine Forbes, è giunta alla sua 7ª edizione. All'interno di questa classifica, che prende in considerazione 73 personalità, al secondo posto c'è la cancelliera tedesca Angela Merkel, mentre al terzo si trova il presidente degli Stati Uniti Barack Obama. L'unico italiano nella lista della rivista americana è il governatore della Banca Centrale Mario Draghi, che si trova all'11° posto. A che punto si trova invece la Roma in Champions League? Ce lo dice Dario Ricci, sempre in vantaggio, Dario? Sì, sì, doppio vantaggio, quindi a proposito di classifiche, anche quella del gruppo E per quanto riguarda la Roma migliora sensibilmente, ma andiamo con ordine perché Roma è in vantaggio per 2-0 quando è il 31° di gioco all'Olimpico, dopo appena 2 minuti il primo gol di Salah lanciato in contropiede da Dzeko, che a sua volta al 28° su un'azione fotocopia contro una difesa a dir poco approssimativa, quella del Bayer Leverkusen, ha trovato il raddoppio sempre a tu per tu col portiere tedesco, facile sia per Salah che per Dzeko infilzarlo. E pochi istanti fa lo stesso centravanti bosniaco, su ottimo assist sempre di Salah, ha calciato incredibilmente alto di destro da favorevolissima posizione, quindi Roma in totale controllo della partita, ma aspettiamo a dirlo perché all'andata è finita 4-4, Roberta, quindi insomma direi aspetterei un po' prima di darla per conclusa. Perfetta, ecco. Infatti ci sentiamo più tardi, Dario, poi ci dici com'è andata. Grazie Dario Ricci. Grazie a voi. Ciao Dario. E intanto prima di lasciarci per questa prima pausa, mentre arrivano i vostri commenti al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte, potete dire appunto se siete d'accordo con questa ipotesi della ministra Beatrice Lorenzin per il nuovo prossimo sindaco di Roma. Su Alfio Marchini dice potrebbe essere il candidato sia del centrodestra sia del centrosinistra per battere il Movimento 5 Stelle. Questa è la proposta. Vi sembra opportuna? Vi sembra una cosa effettivamente possibilmente vincente sulla quale vi trovate d'accordo? 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Vi dico solo una notizia arrivata in questi istanti, che il prefetto di Roma Franco Gabrielli ha nominato 6 subcommissari che affiancheranno il lavoro del commissario Francesco Paolo Trocca. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presento. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Alice scrive: il Vaticano, ma è etico per un giornalista utilizzare materiale fornito in modo scorretto per farci un libro? Alice, d'altronde ogni giornalista fa il suo mestiere, specialmente se è un giornalista d'inchiesta. Poi però lo chiederemo tra pochissimo a un diretto interessato. Intanto vi ricordo quali sono le notizie più importanti, tra poco ci addentreremo in questo argomento. Manovra verso l'intesa governo-regioni, c'è stato oggi il vertice, venerdì ci sarà il decreto salva regioni. Chiamparino, presidente della regione Piemonte e presidente della dimissionario in realtà della conferenza delle regioni, dice bene l'incontro sul miliardo che manca, vedremo. Mannino, ex ministro assolto nel processo sulla trattativa Stato-mafia, dice sono stato vittima di PM ostinati. Al via il maxi processo su mafia capitale, il comune si costituisce parte civile, inizia domani questo maxi processo. VatiLeaks, la denuncia del Papa, la cassa non è in ordine e c'è un altro filone d'inchiesta, Nattino indagato per riciclaggio, ne parleremo tra pochissimo. L'omicidio di Elena Ceste, il marito è stato condannato a 30 anni di reclusione, lui dice sono innocente, il rimorso di non aver capito il suo disagio. E poi l'aereo caduto nel Sinai sarebbe stata una bomba, secondo l'intelligence americana, probabilmente messa dall'ISIS in una valigia. E poi Renzi, che per quanto riguarda la politica italiana apre sull'Italicum, il premio di lista, dice non è un totem. Sì, poi, per chiudere, dagli Stati Uniti all'Italia avrà due droni armati. Però per il momento accantoniamo i droni e parliamo invece di questo nuovo scandalo in Vaticano. Torniamo a parlarne, abbiamo parlato in questi giorni con effetto notte di VatiLeaks 2, la fuga, seconda fuga di notizie dopo quella di 3 anni fa, no? Vi ricordate del Corvo, che era poi il maggiordomo di Benedetto XVI, con la conseguente quindi nuova inchiesta giudiziaria che ha portato all'arresto in questi giorni di Monsignor Balda e della consulente Francesca Ciauchi, che poi è stata rilasciata quasi subito perché sta collaborando, come ha detto qui effetto notte, la sua legale, l'avvocata Giulia Bongiorno. Le notizie in fuga si trovano in due libri in uscita domani, uno Via Crucis di Gianluigi Nuzzi, che era qui ieri sera effetto notte, l'altro è Avarizia di Emiliano Fittipaldi, giornalista dell'Espresso, autore di tante inchieste scottanti. Ultima in ordine cronologico è questa: Fittipaldi raccoglie nel suo libro Avarizia documenti inediti relativi a scandali segreti al centro di VitiLeaks, e chi meglio ce ne può parlare di lui direttamente. Emiliano, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Vuoi rispondere intanto a quella domanda che faceva l'ascoltatore prima, che diceva etico per un giornalista utilizzare? È una domanda che viene fatta solo in Italia, perché noi siamo disabituati al giornalismo d'inchiesta in questo paese. Come se si chiedesse ai due giornalisti che hanno fatto l'inchiesta del Watergate, che fece cadere Nixon, se c'era, diciamo, un qui prodest quando ha ottenuto informazioni riservate. I giornalisti, e soprattutto i giornalisti d'inchiesta, hanno il diritto e il dovere di verificare ovviamente che le notizie siano vere e poi di pubblicarle senza domandarsi a cui prodest, se no dovrebbero cambiare mestiere. La cosa più importante, e che spesso in questo paese ce lo dimentichiamo, che i giornalisti non devono raccontare ciò che il potere vuole che si racconti di loro, ma devono raccontare esattamente l'opposto, quello che il potere non vuole si racconti di loro. Nel mio libro racconto delle notizie straordinarie, bomba, che riguardano la cassaforte vaticana, che mai erano state pubblicate prima e che ovviamente danno molto fastidio. Più facile, insomma, guardare il dito, parlare di corvi, parlare di uccelli e di altre questioni di questo tipo, piuttosto che invece parlare della luna, ossia degli scandali incredibili all'interno di Avarizia. Tu parli, fai poi il punto nel tuo libro Avarizia, di arricchimenti esorbitanti e anche sospetti del Vaticano attraverso varie attività, pompe di benzina e altre cose, no? Parli di questo utilizzo anche per fini, diciamo, non proprio ortodossi del denaro per le offerte per i più poveri, Emiliano Fittipaldi. Sono due aspetti diversi. Ci sono alcune carte che ho ricevuto da Ernst & Young, che raccontano come viene, quanti soldi riescono a guadagnare in Vaticano vendendo per esempio benzina, e guadagnano 27 milioni di euro l'anno, oppure tabacchi 10 milioni di euro l'anno, o vestiti. In tutto questo tre negozietti incassano 60 milioni di euro l'anno, ma la cosa straordinaria è che ci potrebbero entrare soltanto le persone che vivono in Vaticano, no? 3-4 mila persone, i residenti, perché lì le tasse sono molto inferiori rispetto a quelle che si trovano a Roma in Italia. In realtà il Vaticano nel corso degli anni ha regalato ben 41 mila tessere, questo dicono le carte, che pari a una città grande come Frosinone, ad amici, politici, VIP, amici degli amici che possono andare a fare shopping guadagnando tanti soldi. La seconda, risparmiando tanti soldi, la seconda cosa che mi hai chiesto riguarda invece la beneficenza, che è un aspetto che mi ha colpito molto quando l'ho visto, e poi ho fatto, c'è un numero su cui poi tu fai un'inchiesta. L'obolo di San Pietro, per esempio, è una regalia, no? Che tutti gli anni tutti i fedeli del mondo fanno direttamente al Papa, affinché lui faccia attività di carità per i più poveri e i più bisognosi. Quindi ci si aspetta che questo obolo, che sono 60-70 milioni di euro l'anno, venga sempre speso. In realtà ho scoperto che c'è un fondo segreto che gestisce direttamente la Segreteria di Stato, che è arrivato a 377 milioni di euro. E c'è una commissione che si chiama Moneyval che ha scoperto che questi soldi o vengono investiti su conti interni dello IOR e dell'APSA, oppure quando vengono spesi esclusivamente per le necessità della Curia Romana. È sorprendente. Emiliano, senti, poi parlavi anche dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù. Giusto in questo... Sì, cioè, ho fatto un capitolo che è un'esclusiva del mio libro. Il Bambin Gesù è stato indagato da revisori dei conti americani, della Pricewaterhouse, e hanno scoperto di tutto. C'è per esempio una fondazione che si chiama Fondazione del Bambin Gesù, che dovrebbe in qualche modo, che dovrebbe raccogliere i soldi per la ricerca dei bambini malati, che ha investito per esempio 24 mila euro per trasportare il Cardinal Bertone in elicottero da Roma a Potenza per l'inaugurazione di un evento, oppure che ha investito 200 mila euro per ristrutturare la casa del Cardinal Bertone. Di più ancora, c'è un fondo molto cospicuo. Ricordo che Bambin Gesù è un ospedale che viene quasi per intero finanziato dallo Stato italiano. Ecco, c'è un fondo invece allo IOR e all'APSA di 455 milioni di euro con cui vengono fatti investimenti, tra cui investimenti in azioni della ESSO, per esempio una società petrolifera americana, o della Dow Chemical, tutte società che poi sono finite in inchieste passate per danni ambientali. Anche questo sembra molto lontano come tipo di atteggiamento rispetto a quella chiesa, no? Dei poveri e per i poveri che Francesco sta cercando di realizzare. Infatti, scrive un ascoltatore che lotta sta facendo Papa Francesco per creare una chiesa cristiana. Ma Emiliano, fra l'altro, poi tu ti leghi anche a questo nuovo filone che è emerso oggi di questa inchiesta a proposito dello IOR, no? Perché tu dici non è stato ripulito la Banca Vaticana, come racconta la propaganda vaticana, non è stato pulito in realtà. No, non è stato pulito come ci hanno raccontato, a parte che diciamo, fa scopa la notizia di oggi, ossia che Nattino, che è un finanziere molto vicino al Vaticano, è indagato per riciclaggio. In più ci hanno raccontato che lo IOR che era stato completamente ripulito. In realtà ho scoperto che ci sono degli imprenditori laici che non avrebbero diritto di stare all'interno della Banca Vaticana, che sono indagati in Italia e che conservano ancora i loro soldi allo IOR. E di tutte queste informazioni finanziarie che loro avevano promesso di dare alla nostra Banca Italia, all'UIF in particolare, non è mai arrivato nulla. Insomma, quindi le promesse di trasparenza che sono state fatte, e io parlo dell'ultima dirigenza dello IOR, cioè quella, diciamo, dei tempi di Francesco, non sembrano state rispettate. Secondo te perché è troppo debole lui, o perché non riesce ad arrivare fino a chi ha le mani in pasta? Il Papa non può fare tutto da solo. Il Papa ha una resistenza interna straordinaria. Il Papa davvero vuole riformare la Chiesa, il Papa davvero ci sta provando. Ovviamente è lì da solo 2 anni e mezzo. Evidentemente la propaganda vaticana racconta delle cose che non sono ancora avvenute, ma di sicuro c'è una curia che tenta di fermare l'azione riformatrice del Papa, ci sono troppi interessi in gioco, ci sono diciamo prebende, privilegi che cardinali e monsignori non vogliono perdere, quindi vedono questa rivoluzione come il fumo negli occhi. Sicuramente diciamo Francesco è molto, dalla mia inchiesta, da quello che ho capito, ovviamente ho potuto verificare, è molto più isolato di quello che sembra. Grazie Emiliano Fittipaldi, lo ricordo quindi in uscita domani anche il tuo libro Avarizia, domani 5 grazie novembre. A voi. Grazie, ciao, buon lavoro. Buonasera. Ciao Emiliano. Grazie. E adesso è ritornato Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore. Ciao Carlo, secondo te questi libri, queste denunce quindi, e questa fuga di notizie contenuta in questi libri possono aiutare il Papa o diventa un ulteriore diciamo pasticcio, grana, oltre a quelle che ha avuto anche durante il sinodo, no? Diciamo che ha il suo da fare Papa Francesco? Allora diciamo che sì, i giornalisti, per me i giornalisti italiani, devono fare il loro mestiere, quindi anch'io quando ho avuto, spesso è capitato, documenti riservati, più o meno riservati, più o meno spottanti, più o meno eclatanti, li ho pubblicati, quindi la questione è fuori discussione della notizia. L'altra parte è aiuta o non aiuta, sicuramente mette in luce un fatto che molta strada è stata fatta, cioè prima queste cose non si facevano, queste cose in senso la verifica, questa commissione, le carte uscite da questa commissione dimostra che la commissione ha fatto un lavoro, cioè è andata a mappare tutto quello che non si sapeva, quindi è un lavoro meritorio, quindi cioè nel senso, voglio dire, ricordiamoci che gli scandali del Vaticano 30 anni fa era il caso Ambrosiano, stiamo parlando di svariate migliaia di miliardi, oggi è il sottolavello del cardinale Pelle, cioè il costo di un tappetino, non so bene cosa, cioè, ci sono mille altre cose. Sì, un sottolavello da 4.600 euro. No, cioè, sì, ma a parte non abbiamo pagato né io né te, ma voglio dire, no, dico, sto dicendo che è giusto mettere in luce i problemi che ci sono. Aiuta o non aiuta? Secondo me non ha un effetto che a noi giornalisti ci deve interessare poco se aiuta o non aiuta, diciamo, l'oggetto delle nostre inchieste. Se però mi chiedi un giudizio dico che quando si fa diciamo così, viene fuori una cosa di questo tipo, è ovvio che poi chi sta lì in quel momento la deve gestire, cioè non la sta gestendo Bertone in questo momento, la vicenda la sta gestendo chi c'è ora, gestendo, insomma, che comunque ne, come dire, deve avere cognizione del caso. La risposta oggi di padre Lombardi è corretta, adesso dice portavoce del Vaticano, dice alcune cose, dice guardate alcune cose sono cambiate rispetto ad allora, dice poi vero o non vero io non so, non ho letto i libri che ancora non sono usciti, noi del Sole 24 Ore non abbiamo diciamo pubblicato anticipazioni, quindi io non li ho letti. Vedo e rilancio la frase del Papa che dice la cassa c'ha problemi, è una frase importantissima, però lo dice in un momento in cui allora ce l'aveva, ce li ha probabilmente anche ora, però ecco, quello che voglio dire è che secondo me qualcosa è cambiato. Ecco. Senti, però dicevo il filone d'inchiesta nuovo è questo sullo IOR, appunto, perché esatto. Lo scandalo Vatilix si allarga anche alla banca del Vaticano, ci sarebbero dei conti cifrati appartenenti a non ecclesiastici che secondo le accuse di Banca Italia, anche della magistratura italiana, sarebbero stati utilizzati in alcuni casi per compiere illeciti. Allora, quella è un terzo filone ancora, lo IOR, perché ci sono tre casi, il Vatilix 2, quello di cui parlavamo, lo IOR, dove c'è un'inchiesta alla Procura di Roma che si è conclusa, e poi la terza è quella, dicevi prima, del riciclaggio, dove c'è questa banca italiana che è stata chiesta una rogatoria in Italia. Nel caso IOR è vero, ci sono stati dei cittadini italiani che avevano, italiani o non italiani, che non avevano diritto, però allora, non è un illecito per l'Italia avere un conto allo IOR se non è frutto di tangenti o cose o denari neri, lo è se per le attuali regole vaticane, nel senso, il Vaticano ha messo una regola, ma non recentemente, tre anni fa, possono averlo solamente i dipendenti, i cardinali e pochi altri. Se un cittadino non vaticano ha il conto allo IOR dovrebbe essergli chiuso, questo è quello che dice ora. Naturalmente anche lì, se sono stati chiusi 20.000, non mi ricordo, diciamo 20.000 conti, non mi ricordo quanti furono chiusi, la metà erano delle vedove, dei dipendenti vaticani, che non avevano più diritto, per dire, ecco, c'è anche quello in mezzo, non sono solamente frutto di tangenti. Quindi aspettiamo di vedere questo terzo filone a cosa porta, dici? No, quello che voglio dire è che se una persona ha un conto allo IOR, non significa che ci fa transitare delle tangenti, magari lavora in Vaticano, ecco, semplicemente. Credo che ci sentiremo altre volte nei prossimi giorni, Carlo Marroni. Sì, direi, l'abbiamo fatto già e lo faremo ancora, immagino. Grazie, allora, buona continuazione. Grazie. Ciao Carlo. Adesso, prima di prendere questa breve pausa di ricreazione, volevo leggere qualche vostro messaggio. Carola da Torino scrive al 349-238-6666. Adesso capisco, Roberta, perché Papa Francesco dice sempre: e non dimenticate di pregare per me. Se fossimo nel 1500 l'avrebbero già avvelenato, così paventa Carola da Torino. Poi invece sulla possibile candidatura di Alfio Marchini a Roma, portato insieme da centrodestra e centrosinistra, come ipotizzava la ministra Lorenzin, dice un ascoltatore: personalmente ho zero stima della ministra, ma penso che sulla candidatura di Marchini abbia ragione, in quanto lo considero una persona di qualità e penso sia una scemenza avere dei pregiudizi su di lui solo perché è amico di D'Alema e Veltroni. E poi dice Andrea da Bologna: la candidatura congiunta destra-sinistra è un'ottima notizia, dimostra che hanno il terrore di perdere. A tra poco. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presento. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci insieme, Roberta Giordano sempre con voi. Arrivano i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, continuate anche al 349-238-6666, il numero per i messaggi. Marco da Cividale dice: i corvi in Vaticano, i gufi in Italia, insomma siamo pieni di volatili. Poi qualcun altro che sostiene la candidatura di Alfio Marchini da parte di centrodestra e centrosinistra, così come ha proposto la ministra Lorenzin, mentre adesso leggevo sulla pagina Facebook di Effetto Notte che tra gli ascoltatori Nicola scrive: tutti contro il Movimento 5 Stelle per non perdere il privilegio di rubare incontrastati. Vi ricordo le notizie più importanti della giornata e poi parleremo ancora di questa emergenza che riguarda la Sicilia, in particolare Messina. Legge di stabilità: dopo il vertice tra governo e regioni, il sottosegretario De Vincenti assicura venerdì in CDM il decreto salva regioni. Vatilix, ne abbiamo appena parlato, nuovo filone d'inchiesta. Vaticano e Italia indagano per riciclaggio. Padre Lombardi dice: una fuga di notizie è stata ormai superata dalle riforme del Papa. Avete sentito l'autore di uno dei due libri che uscirà domani, Emiliano Fittipaldi. L'omicidio di Elena Ceste: il marito è stato condannato a 30 anni di reclusione. Lui commenta: sono vittima di un errore giudiziario. L'ex ministro Mannino assolto nel processo sulla trattativa Stato Mafia. E poi l'aereo caduto sul Sinai, esploso un motore, secondo l'intelligence americana sarebbe stata una bomba piazzata in una valigetta, e adesso sia la Gran Bretagna che l'Irlanda vietano i voli da e per Sharm el Sheikh. E poi difesa, sì, degli Stati Uniti all'Italia, avrà due droni armati. In America sono stati bloccati appunto i voli a San Diego, questo è un altro blocco, i voli a San Diego per un cecchino che spara all'impazzata. Non ci sono aggiornamenti su questa notizia. E per lo sport, la Roma in Champions League contro il Bayern dovrebbe essere sempre, se non sbaglio, adesso vi aggiorno, vediamo se in tempo reale, 2-0. Messina è ancora a secco in Sicilia, ancora senza acqua, prosegue infatti l'emergenza nella città siciliana. L'AMAM, l'azienda meridionale acque di Messina, dopo la nuova rottura ieri della condotta a causa di una frana a Calatabiano, ha attivato questo bypass tra la condotta di Fiume Freddo e quello di Alcantara. Ma com'è la situazione? Adesso ce lo racconterà il sindaco Renato Acorinti. Buonasera sindaco. Buonasera a voi. Quindi la sua città sta vivendo da giorni una situazione piuttosto infernale, immagino i suoi cittadini, immagino lei sindaco, che si trova veramente una grana grossa. Quanti giorni è che siete senza acqua? Ma guarda, intanto la situazione dall'altra settimana, che per fare capire bene ai vostri ascoltatori, dobbiamo far capire dove è successo e come è successo, perché non è una condotta della città. Questa condotta è a 70 chilometri in un comune diverso, in una provincia diversa, a Catania, perché la gente nell'immaginario pensa sempre una tubazione in una città, ma si ripara in meno di 24 ore. Questo problema è nato perché 40-50 anni fa hanno fatto una conduttura che viene da così lontano e però in un posto passa dalle montagne, in un posto impervio, c'è una collina completamente impervia e da lì si è creata tra l'altro per il dissesto idrogeologico proprio una frana di 100 metri che chiaramente sta portando il problema nella cittadina di Calarabiano, ma ha toccato questo grande tubo di un metro che porta quasi 1000 litri al secondo, che è la conduttura fondamentale e principale per la città di Messina, e che colpendola noi siamo arrivati di sopra con due giorni di ritardo, ma non per colpa nostra. Chiaramente era interdetto a tutti per la questione della frana e perciò non facevano entrare nessuno, immaginate. Quando abbiamo sbloccato questa cosa si è entrata, abbiamo costruito una strada, l'abbiamo riparata e poi di nuovo è arrivata la frana ancora in movimento. Allora c'è un comune che non può toccare il territorio degli altri, immaginate il comune di Milano che non può fare lavori a Torino, questo è ovvio, perciò ora chi deve fare questi lavori per mettere in sicurezza questa parte di monte? Ecco, la campagna e la montagna sopra questa tubazione è problema della regione, è venuto infatti ieri sera eravamo in prefettura a fare un summit, finalmente c'era, oltre io e il prefetto, c'erano anche il genio civile di Messina e di Catania, perché qualunque tipo di progetto che devi fare è il genio civile di Catania che deve approvare, e c'era anche il presidente Crocetta come regione siciliana ovviamente, e poi il numero uno della protezione civile che è Curcio. Sì. Bene, sono venuti proprio perché non era un problema da niente, quando viene la protezione civile viene perché c'è un dissesto forte, un terremoto, una problematica non risolvibile da un comune, tra l'altro non nel comune, questo per sgomberare tutti i problemi. Noi, vedi, il problema perciò è il dissesto idrogeologico che crea un sacco di danno. Io voglio ricordare a tutti che nel 2009, spero che non sia dimenticato, che la gente non abbia dimenticato, 37 morti a Giampilieri, è andata giù una montagna, 37 morti, e ora per riparare i morti non si ripara con nessuna cifra, ma il territorio sono stati spesi cifre colossali, perché sulla prevenzione se si spende 10, se si va dopo il disastro si spende 1000. E allora io ho puntato il dito sul dissesto idrogeologico, che dobbiamo cercare di far investire più risorse possibili per mettere in sicurezza il territorio. Nel 2009 il dissesto ha ucciso le persone e un intero paese. In questi mesi pensa che l'autostrada tra Messina e Catania è interrotta non so in quanti posti, perché proprio la montagna va sull'autostrada e ha invaso l'autostrada e ancora è bloccata e abbiamo il doppio senso di marcia solo da un lato, con rallentamenti, l'economia che se ne va a strabenedire. E dopo queste cose ultimamente ecco che il dissesto colpisce l'acqua e il diritto sacro che è. Ora, che cosa è successo? Ci siamo messi, chiaramente abbiamo chiesto l'urgenza di fare un tavolo con protezione civile, con regione e con risorse che ovviamente non può avere il comune. Quando ci sono disastri, ora a Reggio Calabria è andata via la ferrovia e veramente è anche lì l'acqua. Allora abbiamo chiesto di fare un punto su cercare di mettere in sicurezza la montagna e subito mettere in forza questo tratto di tubazione con tutto l'accorgimento possibile, però la parte a monte deve essere messa in sicurezza. Questo dipende da una regione e dalla protezione civile. Sindaco Corinti, quindi parlando di Messina viene in mente così un po' provocatoriamente il ponte sullo stretto, forse avete più bisogno adesso di mettere, diciamo, è fatto bene a ricordarlo, io sono stato uno di quelli che ha cominciato questa battaglia e insieme a tanti altri abbiamo cominciato in 10 persone, siamo scesi in piazza come mai a Messina, perché le ragioni che avevamo erano talmente tanti, e tra i tanti motivi dal 2000 15 anni fa parlavamo che i soldi vanno sul dissesto idrogeologico, cercando di fermare chiaramente stragi annunciate. E allora, guarda, ma il comune di Messina che cosa abbiamo fatto nella nostra città? Perché lì ti devo rispondere se ho fatto qualcosa per proteggere il mio territorio. E ti rispondo, in appena 2 anni e 4 mesi siamo stati molto virtuosi, che il governo ha riconosciuto in Messina, città da sempre assenti a qualunque cosa. Ricordo che siamo la città, l'ho ereditata con quasi 400 milioni di debiti, un dissesto economico pazzesco, con la città che era la più verde d'Italia, era chiamata la città giardino, ed è invece la città con meno verde d'Italia cementificata. Ma noi siamo arrivati e chiaramente i palazzinari ci vogliono fare fuori, perché abbiamo fatto subito la salvaguardia abbiamo fatto una cosa per salvaguardare il territorio con un intervento sul piano regolatore per cercare di togliere 2 milioni di metri cubi potenziali che vogliono costruire su posti delicati come colline e torrenti. Sindaco, mi dica l'ultima cosa, e adesso in questi giorni come state ad acqua? Ti dico subito. Sì. Allora, in questi giorni a noi abbiamo fatto un bypass, che è un'altra conduttura che si chiama quello dove noi ci formiamo, è il fiume Freddo. L'Alcantara è la conduttura che non usiamo più perché il costo è troppo alto ed è in mano alla multinazionale Veolian. E qua ho tirato fuori un'altra cosa importante, che dobbiamo, dopo il referendum vinto, addirittura l'acqua non è merce e non deve guadagnarci nessuno, vogliamo che diventi pubblica, non solo quella siciliana ma tutta. Chiusa parentesi, noi stiamo facendo un bypass per ora per far arrivare acqua lo stesso a Messina, e sta arrivando l'acqua. Diciamo che Messina in questo momento ha metà dell'acqua, non è che siamo a secco, c'è metà dell'acqua che servirebbe. E pian piano ora che cosa facciamo? In emergenza, concordato in prefettura ieri con Regione e Protezione Civile Nazionale, stiamo attuando un piano di emergenza soprattutto nella zona alta, dove la pressione non fa arrivare l'acqua, e allora ci sono autobotti, arriva una nave cisterna ogni 2 giorni, il tempo che si scarica e subito arriva l'altra. Domani viene il direttore generale per l'emergenza, mi ha chiamato 2 ore fa Curcio, ripeto, il numero uno della Protezione Civile Nazionale, e mi ha annunciato che viene molto bene. Per cercare di coordinare tutto. Mi fa piacere che siano presenti le istituzioni, anche perché il sottosegretario De Vincenti oggi ha detto che bisogna agire al più presto, e entro poco, insomma, la situazione deve ritornare alla normalità. Sindaco, avremo modo magari di risentirci, speriamo che davvero si ritorni alla normalità. Grazie intanto, Renato Corinti. L'unica cosa che vi voglio dire, guardate, facciamo tante cose virtuose e bellissime. Non venite, parlo con tutta la stampa nazionale, non venite solamente quando c'è un guaio come questo, che stiamo cercando di risolverlo con molta coscienza, ma su tutte le cose molto belle che facciamo non abbiamo mai un minimo di approccio con la stampa nazionale. Si faccia sentire. Sicuro molte cose belle. Grazie, okay. Grazie sindaco, buon lavoro, viabilità. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presento. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E eccole in brevissimo le notizie con il vertice sulla legge di stabilità tra governo e regioni. Oggi venerdì ci sarà il decreto salva regioni, e Chiamparino, presidente della regione Piemonte, dice l'incontro è andato bene. Mannino, ex ministro, è stato assolto nel processo sulla trattativa Stato-mafia, lui dice sono stato vittima di PM ostinati. E poi domani al via il maxi processo su mafia capitale, tra pochissimo ne parleremo. VatiLeaks, ne abbiamo appena parlato con un vaticanista del Sole 24 Ore, con uno dei due autori dei libri che usciranno domani, Fittipaldi, dice la denuncia del Papa, la cassa non è in ordine, e c'è un altro filone di indagine che riguarda lo IOR, l'omicidio di Elena Ceste, il marito è stato condannato oggi a 30 anni di reclusione, e l'aereo caduto in Sinai, l'intelligence americana dice che si è trattato di una bomba, e sia l'Irlanda che la Gran Bretagna hanno deciso di bloccare i voli che passano su quella zona e praticamente le tratte su Sharm. Europa 24 notte. Non decolla il piano di ricollocazione dei migranti in Europa. Da Grecia e Italia sono partite meno di 120 persone, altro che le 160.000 previste. Ma la colpa è solo di chi non accoglie i migranti, o lo è anche di Italia e Grecia? Laura Bettini lo ha chiesto a Matteo Villa dell'Osservatorio Europa dell'ISPI. Sì, è possibile, in realtà credo ci sia una corresponsabilità con l'Europa, nel senso che Europa aveva promesso di far attivare, velocizzare gli hotspot, questi centri che dovrebbero identificare rapidamente i migranti prendendone le impronte, evitando il pericolo di fuga o diminuendolo drasticamente. In realtà è vero che ci sono dei rallentamenti da parte del governo italiano, che però gli hotspot li ha fatti partire, possono processare 2.000 persone al giorno. Ci sono sicuramente anche da parte del governo greco, che per adesso promette ma non fa partire nulla fino alla metà dicembre, ma siccome la situazione è comunque problematica, pensate che per esempio gli hotspot italiani possono processare 2.000 persone al giorno, immaginatevi quelli greci che forse ne potranno processare 1.600, paragonati dei 10.000 arrivi al giorno sulle spiagge greche. È vero, possibile che ci sia una corresponsabilità tra governi italiano e greco e l'Europa, però di fatto la situazione è veramente emergenziale e problematica, è difficile da affrontare per tutti. Anche nella migliore delle ipotesi, cioè funzionano tutti gli hotspot, le persone che vengono diciamo selezionate a quel punto hanno una destinazione o un'altra, che cosa fanno nell'attesa di andare a destinazione? Cioè chi si sarà rimpatriato e chi avrà da raggiungere l'Europa, dove sta, cosa fa? Allora, questa è effettivamente una curiosità legittima ed è anche problematico stabilirlo, nel senso che in teoria gli hotspot saranno centri chiusi. La verità è che se il carico dovesse essere eccessivo, quelle persone dovranno muoversi da lì prima, in attesa almeno del ricollocamento o dell'espulsione. È chiaro che quando una persona è chiaramente non un rifugiato si possono prendere provvedimenti per direttissima. Per chi invece potrebbe essere un rifugiato si fa più difficile, perché da quei centri si deve uscire subito una volta identificati, e poi quelle persone devono rimanere comunque in Italia e in Grecia, e quindi bisogna fare altri posti in altri centri fino al momento in cui verranno poi ricollocate effettivamente. Quindi direi che fondamentalmente le questioni sono tre: la prima è quella del rispetto degli accordi presi in sede europea, la seconda è quella della capacità dell'Italia e della Grecia di processare un così alto numero di richieste, e infine quella della disponibilità o meno dei migranti ad accettare qualsiasi destinazione europea. Assolutamente sì, anche qui non sappiamo ancora bene come fare fronte a questo problema. È chiaro che non tutti i migranti potranno andare in Germania. I 30 che partono per il Lussemburgo, se staranno lì buoni per 5 anni e una volta visti si riconoscere lo stato di rifugiato, potranno comunque muoversi in Germania, che è lì vicino. Chi finisce nell'est Europa affronta due ordini di problemi, ed è per questo che non vuole andarci. Primo, se arriva, mettiamo per esempio in Polonia, in cui il governo adesso è cambiato ed è ben più di destra, rischia di vedere la sua richiesta d'asilo processata con più severità, e questo si cerca ovviamente di evitarlo, e poi una volta che è arrivato lì dovrà stare lì appunto 5 anni prima di poter poi muoversi all'interno dell'Europa. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E adesso raggiungiamo la nostra Raffaella Calandra a Roma, si prepara per il processo su Mafia Capitale, molto atteso, Raffaella. Ciao Roberta, sì, molto atteso, la città e non solo la città ma mezzo mondo domani seguirà l'inizio del processo Mafia Capitale nell'aula Occorsio, un maxi processo a grandi numeri, 46 gli imputati, 282 pensate sui testimoni soltanto chiamati da uno dei protagonisti, Salvatore Buzzi, la RAS delle cooperative, mentre sono una settantina quelli della procura. Nel processo, nell'udienza di domani ci saranno anche tutta una sfilza di istituzioni e di associazioni che chiederanno di costituirsi parte civile, a cominciare dal Comune di Roma. Oggi il prefetto Tronca ha firmato la richiesta di costituzione di parte civile, perché in sostanza è stato consentito a Mafia Capitale, questo hanno scritto gli avvocati, di infiltrarsi nel tessuto economico, istituzionale e politico, e quindi di danneggiare il normale svolgimento della vita amministrativa del Comune di Roma. Quindi in sostanza è un po' Roma che va contro se stessa, che si costituisce parte civile contro un pezzo della sua stessa storia, quella della precedente amministrazione soprattutto, ma quella anche di una certa rete di funzionari e di politici che aveva consentito a Massimo Carminati and Company di lucrare, di mungere la vacca, come diceva una famosa intercettazione Buzzi, che era Roma, attraverso un business di rifiuti, accoglienza dei migranti e il verde pubblico. La posta in gioco è molto alta sia per i magistrati che per i politici, tutto si giocherà soprattutto, come dicevamo parlavamo già ieri, sul riconoscimento o meno dell'esistenza di una mafia originale e originaria, come l'avevano definita i PM, perché dai tempi della Maiana in poi nessuna sentenza ha certificato l'esistenza di una mafia sulle sponde del Tevere. Roberta. Grazie Raffaella Calenda, ci sentiamo domani allora da Roma. Ciao Raffaella. Ciao, ciao Roberta. Noi ci sentiamo alle 22.